Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Si intitola Scrittori di uno scrittore, il nuovo libro del premio Nobel per la letteratura V.S. Naipaul, un percorso attraverso i vari modi di guardare e di sentire che lo hanno influenzato. Tra i vari personaggi incontrati nel corso di questo suo viaggio c'è anche Winnie Mandela, ex moglie del primo presidente nero del Sudafrica. Durante la prima visita a Soweto, o meglio durante l'attraversamento di Soweto, avevo visto la casa di Mandela, davanti e di lato, e poi, essendo la strada in salita, dall'alto. Mi era sembrata maestosa. Non era piccola come le altre. Era fatta di mattoni rosso scuro, con una recinzione pure di mattoni e un giardino roccioso sul davanti. Avevamo appuntamento con Winnie Mandela. Quel lunedì mattina entrammo dall'ingresso principale dopo aver superato uno dei due grandi cancelli. Intorno stazionavano 5 o 6 guardie del corpo in completo scuro. Mandela non abitava nella casa, ma si avvertiva la sua presenza ispiratrice e la casa appariva orfana del suo padrone. Io e la persona che aveva organizzato l'incontro ci mettemmo a sedere e quel semplice gesto di attesa conferì un tocco regale all'ingresso di Winnie Mandela. L'atteggiamento modesto, il corpo morbido nel tailleur pantalone color grigio, la famosa parrucca e un giro di perle intorno al collo e ai polsi. Era difficile non rimanere colpiti nell'averla di fronte. La donna che avevi visto in innumerevoli fotografie, in tanti umori diversi. Una donna oggi in un certo senso scavalcata dai grandi cambiamenti avvenuti in Sudafrica. Era ancora piena di passione politica, ancora vicina alle paure provate ai tempi del pericolo. Non avete idea di che cosa volesse dire allora portare il nome di Mandela. Voleva dire arresti e interrogatori. Erano i tempi in cui le persone sparivano o erano uccise dalle forze di sicurezza per il solo fatto di essere membri dell'ANC. Il pericolo maggiore era che i leader morissero in carcere e il popolo si scoraggiasse e perdesse la fede. Perciò mi esposi pubblicamente e lo feci consapevolmente. A quel punto ogni paura mi aveva abbandonato. Quando sei sottoposto a ogni possibile umiliazione e tortura, non rimane più niente, neppure la paura. Una notte arrivarono all'improvviso, gettarono tutte le mie cose in un furgone e io finii esiliata in un posto fuori dal mondo per 9 anni. Sfruttò l'esilio e la lontananza per reclutare militanti e mandarli ad addestrarsi all'estero. Fu a Soweto nel 1976 che la rivoluzione prese la svolta decisiva. È qui che è cominciato e io vivo ancora qui. Non posso immaginare di lasciare la mia gente per andare a stare in un quartiere di lusso. Era un'allusione indiretta alla gigantesca statua di Mandela innalzata in una piazza della Johannesburg ricca. «Una statua ridicola», disse. E il giorno che andai a vederla, 2 bambini bianchi stavano giocando tra i piedi grossi come tronchi. Disse: «Va ricordato che il Mandela che entrò in carcere era un rivoluzionario e il Mandela che ne uscì predicava la pace e il compromesso». Semmai la statua l'avrebbero dovuta mettere qui, a Soweto, dove tutto cominciò e dove era vissuto. Il metodo più sicuro per svigorire una persona è commercializzarla. E ci sono riusciti. L'uomo che andò in prigione non avrebbe mai permesso questa commercializzazione. Non avrebbe acconsentito a diventare il marchio di una fondazione. I miei nipoti si sentono profondamente offesi da tutta questa commercializzazione. È uno stigma incancellabile. La ferita più profonda era la libertà compromissoria che era toccata al Sudafrica. Siamo stati truffati. Il potere economico ai neri, figurarsi. È stato un trucco dei bianchi in combutta con i capitalisti bianchi sudafricani. Hanno scelto dei neri malleabili e li hanno fatti diventare soci delle loro aziende. Ma quelli che avevano lottato, che avevano dato il sangue, sono stati lasciati con niente. Vivono ancora in baracche, senza elettricità, senza fognature, senza possibilità di istruirsi. Quando parlava di Mandela, non usava il nome di battesimo, Nelson, e il cognome lo pronunciava con 2 inflessioni distinte. Una per il Mandela rivoluzionario, una per il Mandela del dopo. Disse: rimasi malissimo quando andò a ritirare il premio Nobel con il suo carceriere De Klerk. Perché si è portato a rimorchio l'oppressore De Klerk? Non aveva fatto niente per la sua liberazione. Il momento storico aveva imposto la necessità di liberarlo e c'era la minaccia di grandi violenze future se le cose non fossero cambiate. Parlammo della Commissione per la Verità e la Riconciliazione. Il suo intento era quello di sanare le divisioni razziali del paese, ma Winnie Mandela, come anche altri, era sprezzante. Disse che era stato particolarmente duro per i neri, che avevano tanto sofferto, presentarsi davanti alla commissione e accusarsi per il fatto di essersi opposti. Disse: dovrebbe essere un percorso individuale, non una cosa imposta a tutta la società. Lo considero un insulto terribile alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la vita per l'eliminazione dell'apartheid. Sono dovuti andare a rendere conto pubblicamente delle loro azioni. Pochi sanno che cosa voleva dire vivere giorno dopo giorno sotto quel regime. Si dimentica che per oltre 40 anni i neri avevano vissuto come non persone. L'anomalia del razzismo per loro era diventata la normalità quotidiana. Quella della Commissione per la Verità e la Riconciliazione non è stata un'idea realistica. Ha riaperto ferite non rimarginabili. Venivi a sapere di tutte le atrocità, dei metodi e degli strumenti della morte dei tuoi cari, come e dove erano stati uccisi, cosa era stato fatto a loro e ai loro corpi. Come si possono perdonare o dimenticare cose del genere? Questa idea, questa favoletta è venuta in mente all'arcivescovo Tutu. Quando Tutu venne qui, gli dissi chiaro e tondo che non avevo intenzione di chiedere scusa per lavare la coscienza altrui e davvero non ero minimamente pentita di quello che avevo fatto. Gli dissi a lui e agli altri membri della commissione che se si trovavano qui nel mio salotto lo dovevano esclusivamente a quelli come me. Era stata la nostra lotta, quello che avevamo fatto ed eravamo stati disposti a fare, a regalarci questa libertà. Tutu ha trasformato la faccenda in una specie di confessione collettiva, eppure dovrebbe sapere che quelli che vanno in chiesa a confessarsi, quando escono rifanno esattamente le stesse cose di prima. E passi per la confessione, ma poi la pace produce eroi dello stampo di Tutu. Mi venne in mente, considerando la lunga vita di Winnie Mandela e tutti gli avvenimenti di cui era stata testimone, mi venne in mente di domandarle quanto era rimasto in lei della sua cultura Cosa. Rimasi impressionato dalla sua risposta, dalla sua passione. Disse: la mia cultura è ciò che mi definisce. Non dimentico mai che provengo dalla terra dei Cosa. Sono africana. Quello che sappiamo ce l'hanno insegnato le nostre nonne. L'avvento della cultura europea ha avuto influenza sul nostro popolo, ma i nostri uomini frequentano tuttora le scuole di iniziazione. Nel mio caso è questione di scelta personale. Le farò un esempio. Se i miei figli o i miei nipoti hanno dei problemi, vado nel mio villaggio sulle tombe dei miei antenati e chiedo aiuto a loro. Noi crediamo che l'antenato cooperi con Dio. Da bambina diceva che voleva fare il medico, ma non sapeva bene che cosa significasse e l'aspirazione si estinse da sola. Oggi molti ricchi neri mandano i figli in prestigiose scuole bianche. Voglio dare ai figli l'istruzione che loro stessi avevano sognato. Che male c'è? Dunque era contenta della sua vita? Quando guardo i miei nipotini mi sento come una miliardaria. Sono la cosa più bella del mondo. Ma la notte, quando sono sola in camera mia, ripenso al braccio della morte e all'isolamento in cui ti tenevano per fiaccarti lo spirito. Il cervello ricorda tutto. Avete ascoltato la lettura di un'anticipazione dal nuovo libro di V.S. Naipaul, di prossima uscita per Adelphi, pubblicata in esclusiva sul settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. I libri di testo costano troppo. La soluzione si chiama Book in Progress. Il professore scrive il manuale e poi la scuola provvede a fotocopiarlo per gli studenti e le famiglie risparmiano fino a 300 euro. Magari ai più stagionati fra loro saranno tornati in mente i vecchi tempi da studenti irrequieti, tutti chiacchiera e ciclostile. Perché adesso, contro il caro libri, l'autogestione la fanno loro, i prof. E altro che chiacchiere. Verba volant, scripta manent. E allora, sotto con le stampanti, le fotocopiatrici, le rilegatrici. Libero libro in libero stato. Matematica, chimica, fisica, informatica, italiano, inglese, diritto, storia e geografia. Testi scolastici fai da te. Costano meno di un libro di quarta mano e sono tagliati su misura da chi in cattedra ci sale davvero, mica per metafora. Book in Progress si chiama La rivoluzione silenziosa e forse era destino partisse da una scuola che porta il nome di un genio che nuotava controcorrente. L'ITIS e liceo scientifico tecnologico Ettore Majorana di Brindisi. L'anno scorso eravamo partiti con i testi di 5 materie, spiega Salvatore Giuliano, preside del Majorana, e per motivi di tempo e di mezzi tecnici assomigliavano più a dispense universitarie che a veri e propri libri. Il successo però era stato clamoroso. I prof di Book in Progress, che a contarli tutti sono ormai più di 300, si sono divisi compiti e materie. Quelli di italiano a preparare l'antologia, quelli di matematica gli esercizi di algebra e geometria e via dicendo. Ne sono usciti manuali per 11 diverse discipline, rilegati in brossura. Poi ogni scuola ha deciso quanti e quali adottare. L'idea del Majorana mi era subito piaciuta, dice Benedetto Di Rienzo, fino al maggio scorso preside del TOSI e oggi presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Book in Progress. È più vicina al manuale anglosassone, calato nella specificità dell'istituto, non unico per tutto il paese. Ma è chiaro che ogni scuola non poteva fare solo per sé, sarebbe stato troppo dispendioso. Così abbiamo creato una rete di istituti, una comunità di docenti, una Wikipedia dell'insegnamento. È un lavoro extra e gratis, ma come per Wiki, l'idea di poter mettere il proprio mattoncino in una grande impresa ha dato ai prof una scossa. I nostri Book in Progress sono libri aperti, materiali modificabili e integrabili, che lasciano spazio alle decisioni del singolo istituto, spiega Di Rienzo. Così in Lombardia si potrà scegliere Fogazzaro, in Sicilia Capuana e in Sardegna la Deledda, perché sono significativi per quel territorio. Per adesso i genitori ringraziano, il risparmio può arrivare a 300 euro all'anno e altre scuole si accodano. Quanto ai ragazzi, si vedrà. Di sicuro dovrebbero gradire la possibilità di evitare la carta e scaricarsi i Book in Progress direttamente dal PC in formato PDF. Altro che ciclo stile. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Luca Angelini «Basta con il caro libri, il prof scrive il manuale e la scuola lo fotocopia» dal Corriere della Sera del 1 settembre.